Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Beethoven, Mozart, Wagner sono solo alcuni nomi dei più importanti e straordinari compositori di musica classica e sinfonica del XIX secolo. Nel Novecento, invece, soprattutto nella seconda metà, i compositori di musica classica non hanno nomi così immediatamente riconoscibili. Eppure, un parallelismo può essere istituito prendendo in considerazione i grandi compositori di musica pop del XX secolo. Avrete senz'altro riconosciuto le note della Rapsodia in blu di George Gershwin, opera classica e sinfonica di uno dei più grandi compositori del Novecento, autore anche di straordinari musical ed eccezionali brani jazz. Accanto a Gershwin sono moltissimi altri i compositori che hanno scritto la colonna sonora della storia contemporanea, da Ennio Morricone a Irving Berlin. Oggi vi raccontiamo proprio la storia di uno di questi straordinari musicisti e del suo più importante sodalizio artistico. New York, primi anni 60. In uno studio di registrazione, un quartetto vocale fondato nel 1953 dai cantanti Clyde McFetter e Ahmet Ertegun, i The Drifters, sta incidendo un brano intitolato Mexican Divorce. Down below El Paso si registrano i controcanti. Oltre al nutrito gruppo delle coriste, sono presenti in studio anche le quattro voci principali, i tecnici e qualcuno dei musicisti che accompagna il gruppo. A un certo punto della sessione, giungono in studio anche gli arrangiatori e compositori di alcuni dei brani dei The Drifters. Sono due grossi nomi. Il primo è Hal David, il paroliere. Il secondo, figura slanciata, elegantissimo, capelli biondi e pettinatura impeccabile, è uno dei più grandi musicisti del XX secolo. È il nostro primo personaggio di oggi. Il suo nome è Burt Bacharach. Burt Bacharach. 12 maggio 1928 è la data di nascita di Burt Bacharach. Un passo prima della Grande Depressione, il futuro compositore nasce da papà Burt e mamma Irma a Kansas City. Il padre, ex giocatore di football, fa il giornalista e riesce a rimanere al di fuori dei tragici problemi causati dalla crisi del 29. La madre è un aspirante cantante e musicista che abbandona ogni ambizione di carriera nel momento in cui il figlio vede la luce. Quando Burt ha solo 3 anni, la famiglia si trasferisce a Forest Hills, poco fuori New York, dove la madre spinge perché Burt studi musica. Probabilmente quando ero adolescente avrei preferito giocare a football o correre dietro alle ragazze piuttosto che passare ore a studiare musica. Ma mia madre insistette e così mi rassegnai. Nei primi anni 40, in casa è una lotta continua tra madre e figlio. Lei vorrebbe che si esercitasse ancora al piano o al violoncello. Lui vorrebbe uscire con gli amici e fare sport. Poi, un episodio curioso cambia la situazione. La band di 5 elementi nella quale suonavo quando ero adolescente fu chiamata per esibirsi ad una festa nella parrocchia di Forest Hills. Notai che durante la nostra performance c'erano almeno 20 di belle ragazze che giravano intorno al pianoforte, non al sassofono o alla batteria. Erano attratte dal pianoforte che suonavo io. Credo che ciò abbia segnato la mia scelta professionale e anche la scelta del mio strumento. Così, nel 1946, Burt ottiene il diploma alla Forest Hills High School e decide di continuare gli studi musicali. New York, metà anni 40. La città americana, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è una città in straordinario fermento, viva, eccitante. Una città in continua e incessante espansione, nella quale spuntano come funghi nuovi grattacieli, sempre più alti, sempre più imponenti. La Grande Mela assume il suo aspetto multietnico e multiculturale. Si riempie di artisti, di intellettuali, di scrittori. A suggellare questa eccitazione febbrile c'è naturalmente la musica. La metà degli anni 40 segna il punto più alto e importante della cosiddetta swing era, In centinaia di locali della città americana proliferano big band che eseguono funambolici brani sostenuti da ritmiche mozzafiato e da fiati poderosi. Benny Goodman, Cab Calloway, Duke Ellington, Glenn Miller, Ella Fitzgerald, Buddy e Freddie Rich sono solo alcuni dei grandi nomi che esplosi negli anni 30, a metà dei 40 raggiungono il culmine della loro popolarità in uno scenario musicale dalla ricchezza impressionante. In locali semibui, all'interno dei quali le poche luci fendono una densa coltre di fumo che si alza dalle migliaia di sigarette accese nell'arco di una sola sera, queste leggende dello swing scrivono pagine di storia della musica, spingendo Burt Bacharach su quella strada. Chappity chop chop chop chop stick. Chappity chop chop chop till six. Chappity chop chop chop's the thing. When Charlie Chingy make his sing song swing. Charlie Ching, make a sing song swing with a ting-a-ling on the ding-dong-ding. With a ting-a-ling on the ding-dong-ding. Make a plenty sing song swing. Chop-a-dee-chop, chop-chop, chop-sticks. Chop-a-dee-chop, chop-chop till six. Chop-a-dee-chop, chop-chop's the thing. When Charlie Chingy make his sing song swing. Foo young foo, make a doodle do with a toot or two on the flute bamboo. And the doodle do and the ting-a-ling. Make you plenty sing song swing. Chop-a-dee-chop, chop-chop, chop-sticks. Chop-a-dee-chop, chop-chop till six. Chop-a-dee-chop, chop-chop's the thing. When Charlie Chingy make it sing song swing. Burt Bacharach si immerge nel fermento musicale e culturale della Grande Mela. Le influenze che segnano però l'inizio della sua carriera di compositore sono varie e differenti, come ricorda lui stesso. Beh, per prima cosa devo dire che inizialmente detestavo la musica classica. E poi però ho ascoltato Ravel e la cosa mi ha davvero galvanizzato e mi ha aperto la mente. Oltre a ciò, per quanto riguarda la musica classica, mi sono serviti moltissimo i miei studi con Henry Cowell e Darius Milhaud. Poi sicuramente grandi musicisti swing come Dizzy Gillespie, Charlie Parker e Ted Cameron. Dobbiamo considerare però che New York era una città multietnica, per cui sono entrato in contatto anche con una grande varietà di musica brasiliana e sudamericana. Forse è per questo che da subito, quando ho iniziato a comporre, non ho avuto una grande passione per le tonalità maggiori e comuni e ho sempre preferito un brano in minore settima ad un brano in do maggiore. Il 25 giugno 1950 scoppia la guerra di Corea. La Corea settentrionale, sostenuta dalla Cina e dall'Unione Sovietica, e quella meridionale, sostenuta dalle Nazioni Unite, si fronteggiano per tre lunghi anni, nei quali il sostegno degli States e dei russi diventa sempre più ingente e importante. Burt Bacharach viene chiamato dall'esercito e spedito in Corea. Ci rimane un anno, svolgendo per lo più mansioni d'ufficio ed esibendosi anche al pianoforte nelle serate di svago concesse ai militari. Quando viene restituito alla vita civile, la sua voglia di musica è più grande di prima. Dopo essere tornato dalla Corea, iniziai subito a girare per i principali locali di New York. Facevo piano bar. Era divertente e discretamente remunerativo. Intanto continuavo a studiare musica classica con Miud, il quale mi diede un suggerimento importante. Non essere snob. Gioca con le tonalità, ma non aver mai paura di comporre un motivo che la gente sarà in grado di fischiettare. In uno di questi locali newyorkesi, Burt Bacharach ritrova il cantante Vic Damone, una delle grandi voci dello swing newyorkese. I due per qualche anno formano un sodalizio di grande successo. Bacharach accompagna e arrangia i pezzi di Damone, il quale però, essendo un personaggio bizzoso e imprevedibile, arriva a licenziare in tronco il giovane musicista per alcune voci infondate che aveva sentito circa l'intenzione di Bacharach di lasciarlo a breve. Fu certamente una brutta esperienza, ma mi diede la carica per studiare e perfezionarmi ulteriormente affinché non si potesse più ripetere una cosa simile. La ricerca di nuove motivazioni non è l'unico dato che rende importante la collaborazione e la successiva rottura con Vic Damone nella vita di Burt Bacharach. Grazie al bizzoso cantante italo-americano, infatti, Burt conosce la futura attrice Paula Stewart, in quegli anni nota soprattutto per essere stata la brillante protagonista di un catalogo di lingerie che aveva spopolato negli States. I due si innamorano e arriva il matrimonio. Il matrimonio e la marcia nuziale devono piacere molto a Burt, dato che Paula Stewart è solo la prima delle quattro mogli di questo straordinario musicista. Alla fine degli anni 50, Burt Bacharach è un apprezzato giovane compositore e arrangiatore a cui non mancano offerte di lavoro. Il lavoro del compositore però spesso, nella musica contemporanea, non porta necessariamente fama e gloria. Soldi, certo, ma se si lavora nel pop e nel jazz, il compositore talvolta rimane nell'ombra, nascosto dal successo dell'interprete. Non è sempre così, soprattutto quando si incontrano le persone giuste. Esattamente quello che accade a Burt Bacharach. Hal David, nato a New York il 25 maggio 1921, professione paroliere. È il primo dei due incontri che cambieranno per sempre la carriera di Bacharach. I due si incontrano alla Brill Building, dove vengono messi entrambi sotto contratto. Perez Prado, Betty Page, Perry Como sono i grandi artisti con cui il tandem Bacharach-David viene chiamato a collaborare, come ricorda lo stesso David. Poco dopo esserci conosciuti, era nato un feeling molto forte e molto intenso. Ci capivamo al volo e le sue melodie sembravano fatte apposta per far volare le parole che io scrivevo. Una delle collaborazioni che ricordo con maggior piacere fu indubbiamente quella per il pezzo I sogni son desideri, canzone principale di Cenerentola della Disney. Cause if you tell a wish, it won't come true. And after all, a dream is a wish your heart made. Bacharach e David collaborano anche con Marlene Dietrich, seguendola in un tour musicale in giro per l'Europa proprio sul finire degli anni 50. È così, insomma, che Bacharach e David finiscono in quello studio di registrazione di New York da cui siamo partiti durante le registrazioni dei The Drifters, compositore e paroliere di successo, ancora poco noti al grande pubblico. Quel giorno, però, mentre vengono incisi i cori di Mexican Divorce dei The Drifters, succede qualcosa. Succede che l'orecchio raffinato di Burt Bacharach noti che nel gruppo di voci delle coriste ce ne sia una con un timbro del tutto particolare, un po' roca, ma comunque dolce e melodiosa. Bacharach nota soprattutto che la ragazza, a dispetto della giovane età, possiede sicurezza e piglio da star. Il compositore le si avvicina, si presenta e le chiede se è interessata a incidere un pezzo dimostrativo. La ragazza accetta con entusiasmo. Quella ragazza si chiama Dionne Warwick. Dionne Warwick. Se dovessi indicare un cantante o una cantante che preferisco in assoluto, beh, sceglierei Dionne Warwick. Era una capace di far sognare con la sua voce. Aveva una tessitura vocale in grado di emozionarmi profondamente. Voce magnifica e irripetibile. Dionne Warwick nel 1961 è una delle voci di punta del gruppo vocale Gospelers, ma per lo più è ancora una perfetta sconosciuta. L'intuizione di Bacharach è molto semplice. Con una voce così ricca di talento, sente di poter spingere le sue composizioni oltre i confini che ha sempre dovuto rispettare. Il brano che Bacharach e David approntano per lei si intitola Make It Easy On Yourself. Era in grado di essere ruvida e potentissima quando cantava a piena voce e delicatissima come una miniatura dentro una bottiglia quando cantava a mezza voce. Era in grado di emozionarmi come nessun'altra voce prima aveva fatto. Il demo di Make It Easy On Yourself viene fatto sentire a Florence Greenberg, fondatore e padrone della Scepter Records, una piccola ma raffinata casa discografica. Bacharach vuole ottenere le condizioni ideali per la Warwick. Un piccolo studio in grado di investire tutto su di lei e disposto a lasciargli il controllo artistico assoluto sulle composizioni, gli arrangiamenti, le registrazioni. È esattamente quello che riesce a ottenere. Greenberg mi disse: «Ok, dimentica la tua canzone, non mi piace. Non farti sfuggire la ragazza». La ragazza, oltre al talento, possiede anche grande personalità. Ne è prova un fraintendimento che segue l'incisione del demo tape e che porta curiosamente al primo grande successo del tandem Warwick-Bacharach. Io inizialmente non avevo capito che Bart e Old David volessero farmi incidere un semplice demo tape. Pensavo che fosse già un brano destinato al mercato. Così, quando mi annunciarono la cosa, risposi: «Hey, don't make me over», che è una forma slang per dire «Ehi, non prendetemi in giro». Bart mi disse: «Come hai detto? Puoi ripetere?» Beh, io non capivo il perché. Don't make me over. L'esternazione della Warwick diventa immediatamente il titolo del singolo di lancio del suo primo album, Presenting Dionne Warwick, pubblicato nei primi mesi del 1963. Musiche, arrangiamenti e composizioni di Burt Bacharach, testi di Bacharach e Hal David. Un grandissimo successo, il primo di una lunga serie. Don't make me over. Make me over. Now that you know how I adore you, don't pick on the things I say, the things I do. Just love me with all my faults, the way that I love you. I'm begging you. Don't. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia di uno dei più grandi compositori della musica leggera, Burt Bacharach. Talento precocissimo, Bacharach compie subito una carriera brillante come arrangiatore e compositore, ma la fama a livello internazionale arriverà soprattutto grazie all'incontro con lo sfolgorante talento di una cantante che lui stesso scoprirà quasi per caso, Dionne Warwick. Don't make me over. Il singolo Don't Make Me Over cambia completamente la vita di Dionne. In primo luogo ne cambia anche il nome, dato che la cantante in realtà si chiama Dionne Warwick. Ma sulla copia master del CD, la casa di produzione sbaglia a scrivere il suo nome aggiungendo una W. A Dionne la cosa non dispiace e così nasce il suo nome d'arte. Secondariamente cambiano anche lo stile di vita e le prospettive della giovane cantante. Ricevetti una telefonata dal mio manager con cui feci una lunga chiacchierata. Mi suggerì di abbandonare la scuola e di dedicarmi definitivamente anima e corpo alla musica. Una scelta che tutto sommato oggi un pochino rimpiango, almeno limitatamente all'abbandono degli studi. La prima esperienza on stage della Warwick è in Francia. Memorabile un concerto all'Olympia nel quale fa da spalla alla grande Marlene Dietrich. Un critico musicale, Jean Montreux, scrive di lei pochi giorni dopo sulla rivista Arts queste parole. Il suono della sua voce ti fa pensare ad una tempesta, ad un serpente, ad una culla, ad un pugnale, ad un'alga. Non è il suono di una voce umana, sembra quello di un organo. Si potrebbero scrivere delle fughe per la voce di Dionne Warwick. Il secondo e terzo successo di Dionne sono This Empty Place e Make the Music Play, che irrompono immediatamente nella top 100 della Hit Parade. Dietro a entrambi i pezzi c'è la sapiente mano di Burt Bacharach. Il quarto singolo è il successo che fa fare a entrambi il botto definitivo. Si intitola Walk On By e si inserisce immediatamente nella top 10. Diventa un successo di portata internazionale, vendendo milioni di dischi in tutto il mondo. Nel frattempo sono sempre più numerosi i musicisti che vogliono lavorare con Burt Bacharach. Qualche nome: Dusty Springfield, i Beatles con Baby It's You, Tom Jones, Sandy Shaw, Jen Pitney e soprattutto la grande Aretha Franklin con I Say a Little Prayer. If you see me walking down the street and I start to cry, be shy with me. Walk on. Each time. Nel 1965, un articolo pubblicato sul Time descrive così Dionne Warwick. Lo stile di Dionne Warwick è assolutamente straordinario, complesso e seducente. Anche se la moda sta consacrando il rock anche negli ambienti più chic, la voce potente, calda ed emozionante di Dionne Warwick è una novità assoluta, destinata a lasciare un segno profondo nella storia della musica. Il periodo d'oro della coppia Warwick-Bacharach prosegue con altre straordinarie hits. Nel 1967 esce l'album Here, Where There Is Love, un altro straordinario successo. In particolare spopola il singolo I Say a Little Prayer. Si trattò di un periodo molto fortunato e favorevole, in cui le cose giravano per il verso giusto. Bart era in grado di concepire partiture meravigliose, che sfruttavano perfettamente la mia voce. Sapeva capire con straordinaria lungimiranza ciò che poteva valorizzarmi pienamente. Fu emblematico il caso di Alfie. Alfie è un pezzo che Bacharach scrive per l'omonimo film interpretato da Michael Caine nel 1966. Bacharach pensa da subito alla Warwick come interprete, ma la casa di produzione britannica si oppone, insistendo per Cilla Black. Mi spiace molto dirlo, ma in quegli anni il mondo musicale britannico era ancora permeato da una sorta di razzismo, per cui le cantanti nere, come me, venivano in qualche modo discriminate. Ad esempio, la maggior parte dei miei successi, quando venivano esportati in Gran Bretagna, venivano reinterpretati da altri cantanti, e la cosa mi faceva parecchio innervosire. Alfie, al di là del film, nella versione di Cilla Black, ottiene un successo piuttosto modesto, non andando mai oltre al 95esimo posto nelle classifiche delle vendite. Negli Stati Uniti, il produttore del film chiede una nuova versione della canzone cantata da Cher. Arriva al 33esimo posto. Nel giro di pochi mesi, decine di versioni vengono prodotte e registrate. Bacharach però ne vuole un'altra, quella a cui aveva pensato fin dall'inizio. Mi ricordo che mi portò in studio di registrazione e mi chiese di cantare Alfie. Ancora? Gli dissi io. Ma sarà la 40esima volta che qualcuno incide questo pezzo. Di quante versioni di Alfie hai bisogno? Lui rispose calmissimo. Ancora una. La tua. What's it all about? Alfie. La versione di Dionne, diffusa come B-side della ballata The Beginning of Loneliness, scala le classifiche di tutto il mondo, entrando in quasi tutte le principali top ten. Dionne esegue il pezzo alla cerimonia degli Oscar del 1968, dandone un'interpretazione mozzafiato. Alfie è un pezzo che ho scritto per un film, ma è uno dei brani che sento più miei in assoluto. Penso sia uno dei pezzi favoriti e credo sia anche uno dei testi migliori che Hal David abbia mai scritto. Sono assolutamente innamorato di questo pezzo. Il successo di Dionne Warwick e di Burt Bacharach alla fine degli anni 60 ha raggiunto l'apice in tutto il mondo. Anche nel nostro paese la Warwick è ormai una celebrità e nel 1969 appare al Festival di Sanremo cantando La voce del silenzio di Mina. Volevo stare un po' da sola. Pensare tu lo sa. L'ascesa inarrestabile della Warwick prosegue fino al 1971. Poi, dato che anche le storie più felici vivono momenti di difficoltà, la sua collaborazione con Bacharach e Hal David si interrompe bruscamente per agenti esterni e inaspettati. Nel 1971 ho fatto le scelte meno felici della mia carriera: abbandonare la Chapter Record per la Warner. Andavo a lasciare un ambiente familiare e piccolo per approdare ad una major. Le major seguono logiche assolutamente diverse. Il fattore umano, che per me era importantissimo, contava di meno e io, come artista, venivo valutata in base alle cifre che i miei dischi riuscivano a concretizzare. Questa visione romantica della musica e dello show business spiega solo in parte il repentino calo di popolarità e di successo che la Warwick vive all'inizio degli anni 70. A incidere maggiormente sull'andamento della sua carriera avviene la rottura tra Bacharach e la stessa Warner. Il compositore, infatti, aveva inizialmente seguito la cantante nella sua nuova avventura presso la Major, insieme al fido Hal David, e sempre per la Warner aveva accettato di comporre le musiche per il film Orizzonte Perduto con Peter Finch e Liv Ullmann, remake di un grande successo di Frank Capra. Successe che il film fu un fiasco totale perché era in effetti un film veramente problematico e poco riuscito. Ricevemmo così tante critiche anche per la colonna sonora che io e Al rompemmo la nostra relazione e di conseguenza si dissolse anche l'accordo che avevamo con la Warner, che ci aveva presi sotto contratto insieme. Diane si ritrova orfana del suo grande mentore, del suo scopritore e dell'autore di tutti i suoi pezzi di maggior successo. Per quanto le sue interpretazioni rimangano al top, qualcosa manca alla sua musica. L'unica hit del decennio è Dan Came to You. Il binomio Warwick-Bacharach, in ogni caso, è destinato a riformarsi. Tra poco, a destini incrociati. Ever since I met you, seems I can't forget you. The thought of you keeps running through the back of my mind. Every time I'm near you, I get that urge to feel you. Just touching you and loving you makes everything right. Tell me how you feel, baby. I never knew love before. Oh, oh. Burt Bacharach, uno dei più grandi compositori del secolo, e Dionne Warwick, voce tra le più belle della musica black degli ultimi 50 anni. Insieme, a cavallo tra i 60 e i 70, sfornano alcuni capolavori immortali, scalando le classifiche di tutto il mondo. All'inizio degli anni 70, una controversia tra Bacharach e il suo paroliere, Hal David, con conseguenti azioni legali da parte della Warner, separa la coppia. Per Dionne Warwick inizia un decennio in tono minore. Per Burt, nonostante vari tentativi di progetti solisti, la carriera subisce una brusca battuta d'arresto. Sinceramente mi sentii come abbandonata. Non ho mai avuto problemi con Burt e mai ne avevo avuti con Hal David. Una lite tra di loro aveva portato a questa situazione, dalla quale credo avessimo tutti qualcosa da perderci. La carriera di Burt si rialza all'inizio dei folli anni Ottanta, quando sposa Carol Bayer Sager, autrice di testi musicali in piena ascesa, con la quale inizia una proficua collaborazione artistica. Insieme, Burt e la nuova moglie scrivono numerosi pezzi di successo che rilanciano la carriera del compositore. Tra questi, forse il pezzo più importante è la canzone per il film Arturo con Dudley Moore, cantata da Christopher Cross. Heartlight per Neil Diamond e On My Own per Patti LaBelle sono gli altri grandi successi che segnano il grande ritorno di Burt Bacharach. Anche per la Warwick, gli anni Ottanta segnano una netta ripresa. La cantante rompe con la Warner e firma per la Arista Records, etichetta specializzata in black music. Il primo singolo, I'll Never Love This Way Again, segna il ritorno di Dionne in vetta alle classifiche. Il singolo precede di poco l'uscita dell'album Dionne, che sarà disco di platino nel 1980, vendendo più di 1 milione di copie. Déjà Vu e No Night So Long sono altre hit che spaccano le classifiche. Il brano che lancia la Warwick in cima alla Hit Parade è però un pezzo che profuma fino in fondo di anni Ottanta. Lo scrive per lei Barry Gibb dei Bee Gees e si intitola Heartbreaker, preludio a un nuovo album che nel 1982 diventa il più venduto in assoluto da Dionne Warwick. Entrambi hanno i capelli sporcati di grigio. Per entrambi qualche ruga ha iniziato a segnare il volto. Dionne Warwick e Burt Bacharach sono invecchiati rispetto al loro primo straordinario incontro artistico nel 1961 in uno studio di New York. Nel 1984, però, sono ancora in piena forma quando si ritrovano per parlare di un progetto. Si intitola That's What Friends Are For ed è un brano scritto e pensato per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'AIDS, uno dei grandi, gravissimi problemi degli anni Ottanta. Fu un piacere ritrovarci. In pochissimi minuti l'imbarazzo per il lungo silenzio si sciolse insieme a tutto ciò che ci poteva essere di irrisolto nel passato. Il brano per l'AIDS vede anche Stevie Wonder ed Elton John schierati in prima linea, pronti a cantare insieme a Dionne. Accanto a questo progetto, però, il nuovo incontro tra Dionne Warwick e Burt Bacharach porta al concepimento di un nuovo album, Finder of Lost Loves, scritto proprio da Bacharach e dalla moglie Carol Bayer Sager per Dionne. Sempre nel 1985, la Warwick partecipa al progetto portato avanti da Michael Jackson, We Are the World, un brano arrangiato da Quincy Jones per scopi benefici. Queste esperienze fanno comprendere a Dionne come la parte conclusiva della sua carriera debba essere impiegata per sostenere chi al mondo ha più bisogno. Così, abbandonate progressivamente le rutilanti scene dello show business, Dionne, dagli anni 90 in poi, salvo qualche rara apparizione, si dedica oggi a curare e sostenere campagne di sensibilizzazione contro la fame nel mondo. Burt Bacharach, invece, ha continuato la sua carriera, legandosi in particolare ad alcuni successi di Elvis Costello e di Rufus Wainwright. Ha pressoché abbandonato, a partire dagli anni Ottanta, le collaborazioni con il cinema e la televisione, intensificando la sua attività concertistica. In ogni caso, per questi due straordinari artisti, il decennio d'oro è stato quello che li ha visti insieme fra gli anni 60 e gli anni 70, quando Burt, dopo aver scoperto quasi per caso una delle più straordinarie voci della musica leggera, ha composto per lei canzoni indimenticabili e immortali. La loro collaborazione, supportata dalle splendide parole scritte da Hal David, rimane probabilmente il vertice assoluto della black music. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer.